ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Misure anti-Covid in una settimana sanzionati dai NAS, 351 tra bar e ristoranti, quasi la metà per mancato uso delle mascherine. Da oggi in vigore il nuovo DPCM, preoccupa ancora il nodo scuola-trasporti, il governo apre un tavolo con le regioni. La situazione può esplodere per l'aumento dei ricoveri, l'allarme oggi del direttore della terapia intensiva del Sacco di Milano. Istat prosegue il lento calo dell'economia sommersa e di quella illegale, ma insieme valgono ancora l'11% del PIL. Calcio, torna in campo la nazionale di Mancini, stasera a Bergamo si gioca Italia, Olanda di Nations League. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24, una giornata caratterizzata dall'allarme lanciato, l'avete sentito dai titoli, dal direttore della terapia intensiva del Sacco di Milano. La situazione può esplodere già nel giro di qualche settimana con questo aumento dei ricoveri, ne parleremo tra poco. All'indomani intanto del varo del nuovo DPCM, le misure sono in vigore da oggi, le regioni continuano a sollevare preoccupazioni per la gestione del trasporto pubblico. Oggi ci sarà un tavolo al Ministero dei Trasporti. Intanto sono stati diffusi i numeri delle ispezioni condotte dai NAS in bar e ristoranti per controllare il rispetto delle misure anti-Covid. Su 1900 ispezioni sono state rilevate 351 violazioni, la più diffusa, il mancato uso della mascherina. Sentiamo. L'affollamento sui trasporti pubblici locali non sarà risolto ricorrendo alla didattica a distanza nelle scuole superiori. Sul punto il governo è compatto. Il ministro dei trasporti Paola De Micheli, nell'incontro convocato per oggi pomeriggio, proporrà anche a regioni, comuni e imprese del TPL di non abbassare l'attuale 80% di capienza sui mezzi pubblici. La soluzione che il governo vuole trovare con gli enti locali è invece quella di differenziare ancora di più gli orari di scuola, uffici e negozi, cercando soluzioni città per città. Sono 1900 i controlli anti-Covid effettuati dai NAS nell'ultima settimana in bar e ristoranti e 351 le violazioni individuate, tra cui mancato uso della mascherina, distanza insufficiente fra i tavoli, assenza di prodotti igienizzanti. È in vigore da oggi il nuovo DPCM Conte, con l'obbligo di mascherine anche all'aperto, stop alle partite amatoriali di sport di contatto e stop alle gite scolastiche, mentre restano aperti musei e luoghi di cultura. Cresce però la pressione sugli ospedali. L'aumento dei ricoveri è esponenziale, ha detto su Sky il direttore della terapia intensiva dell'ospedale Sacco di Milano, Emanuele Catena. Se non rispettiamo tutti le regole, la situazione rischia di diventare esplosiva. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E oggi il ministro della Salute Speranza è tornato sulla questione dei vaccini anti-influenzali. Il 70% in più è stato acquistato dalle regioni. Così Speranza ha rassicurato e ha ribadito l'invito a sottoporsi alla vaccinazione per evitare la sovrapposizione coi sintomi del Covid, anche se sappiamo che non in tutte le regioni il vaccino è già disponibile. Sentiamo il ministro Speranza. Le regioni, sulla base di una circolare del Ministero della Salute, hanno acquistato il 70% in più rispetto ai vaccini somministrati nell'anno passato. Sono numeri significativi, la campagna vaccinale si sta avviando in tutte le regioni e l'auspicio è che ci possa essere una risposta importante da parte dei cittadini nel nostro Paese. Uno sguardo anche alla situazione globale. In Europa l'Irlanda del Nord preoccupa in particolare, saranno chiuse le scuole per 2 settimane nell'ambito di un pacchetto di nuove misure restrittive per contenere l'epidemia. È solo uno dei tanti, l'ultimo aggiornamento che stanno arrivando dal continente. Sentiamo. Sono tutti impegnati a contenere i contagi, i governi europei. Questa settimana si è toccata la più alta incidenza di nuovi casi dall'inizio della pandemia, con oltre 700.000 nuovi contagi. Oltre la metà di questi sono stati registrati nel Regno Unito, in Francia e in Spagna. Nuovo record giornaliero di contagi anche in Germania. Per la prima volta da 6 mesi il numero di casi confermati è superiore ai 5.000. Anche il numero delle vittime è aumentato dai precedenti 13 a 40. Mentre sono 620 i pazienti in terapia intensiva nel paese. Situazione difficile anche in Gran Bretagna, dove si è passati a chiusure mirate dopo aver toccato gli oltre 17.000 contagi. Lockdown parziale in Olanda, dove si è registrato un nuovo record di 7.400 casi in un giorno. 13.000 le persone positive in Francia. Il paese, Parigi in particolare, è in attesa delle parole del presidente Macron, che questa sera, durante il telegiornale delle 20, annuncerà i provvedimenti urgenti del governo per far fronte all'aumento del contagio nella regione di Parigi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torniamo in Italia e con l'azione del governo anche sul fronte economico, perché è varato il nuovo DPCM con le misure anti-Covid, anche se, come abbiamo sentito, resta aperto il nodo dei trasporti. L'esecutivo sta lavorando alla manovra economica da 40 miliardi per ridare ossigeno all'economia. Tra oggi e domani andranno al voto la nota di aggiornamento al DEF e lo scostamento di bilancio. Dopo il Senato, Giuseppe Conte interviene anche alla Camera in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, accogliendo l'impegno contenuto nella risoluzione approvata ieri dalla maggioranza. Il Premier assicura che una parte significativa delle risorse del Recovery Fund sarà destinata all'occupazione femminile. Intendiamo promuovere l'occupazione femminile anche tramite agevolazioni per le donne e le madri lavoratrici, da definire un assegno unico universale per ogni figlio a carico, in raccordo con una più organica riforma fiscale, potenziare l'accesso ai servizi per la prima infanzia. Nel pomeriggio, intanto, Camera e Senato voteranno su nota di aggiornamento al DEF e scostamento di bilancio, un voto a maggioranza assoluta, su cui pesano le assenze dovute al Covid di diversi parlamentari della maggioranza e sul quale Conte ha fatto appello al senso di responsabilità dell'opposizione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Con la cronaca andiamo all'estero. Resta alta la tensione tra Turchia e Grecia. Continueremo a dare alla Grecia e all'amministrazione greco-cipriota la risposta che merita nel Mediterraneo orientale, ha detto oggi il presidente turco Erdogan in merito alla lite per i diritti energetici. Erdogan accusa Atene e Nicosia di non mantenere le promesse fatte nelle piattaforme europee e NATO dopo aver confermato l'invio nelle acque contese della nave da ricerca sismica turca Oruk Rice, impegnata in esplorazioni energetiche. È stata arrestata dalla Guardia di Finanza ieri sera su mandato di cattura internazionale emesso dal Vaticano Cecilia Marogna, la donna che compare nell'indagine sull'ex numero 2 della Segreteria di Stato Vaticana, il cardinale Angelo Becciu. L'accusa nei confronti di Marogna è, come nel caso di Becciu, peculato per distrazione di beni. La pagina economica adesso, l'economia illegale e quella sommersa valgono l'11,9% del PIL italiano. Lo stima l'Istat che, osservando i dati del 2018, misura un nuovo leggero calo, quindi una notizia positiva di questo fenomeno dell'economia non osservata. Sentiamo. Nel 2018 l'economia sommersa ed illegale si sono attestate a 211 miliardi di euro con un peso dell'11,9% sul PIL. Rispetto al 2017 si sono ridotte di circa 3 miliardi, confermando la tendenza alla discesa dell'incidenza sul PIL dopo il picco del 13% raggiunto nel 2014. È quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Istat, in cui si precisa che l'economia sommersa ammonta poco meno di 192 miliardi di euro, mentre le attività illegali ammontano a 19 miliardi. Aumenta il peso dell'economia illegale all'1,1% del PIL. La crescita delle attività illegali è determinata per la quasi totalità dal traffico di stupefacenti. Le unità di lavoro irregolari, infine, nel 2018 sono state oltre 3.650.000, in calo di 48.000 unità rispetto al 2017. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Fondazione Leone Moressa, con il contributo della CGA di Mestre, ha aggiornato il calcolo su costi e benefici in termini puramente economici della popolazione di origine straniera in Italia. Ebbene, tasse e contributi dei lavoratori stranieri valgono 26,6 miliardi, mentre le spese per servizi, assistenza e welfare nei confronti degli stranieri valgono 26,1 miliardi di euro. Il saldo costi-benefici è dunque leggermente positivo per 500 milioni. Sentiamo Chiara Tronchin, ricercatrice della Fondazione Moressa, al microfono di Valentina Furlanetto. È opinione comune che la popolazione immigrata usa più servizi di quanto riesce a dare come apporto economico a livello di tasse. Noi invece, mettendo in fila le entrate fiscali della popolazione, poi abbiamo i consumi e l'IVA, arriviamo a 26,6 miliardi di euro ogni anno che la popolazione straniera paga in tasse e consumi. A questi vanno tolti le uscite fiscali, dalle uscite previdenziali, dalla sanità, dalla scuola, abbiamo messo anche l'accoglienza, i costi della giustizia, i costi per i servizi sociali, e la somma ci dà 26,1 miliardi, quindi il saldo tra i costi e benefici dell'immigrazione è positivo, abbiamo un avanzo di 500 milioni di euro. In chiusura siamo con lo sport, il calcio. Stasera alle 20.45 a Bergamo torna in campo la nazionale che affronta l'Olanda in una gara valida per la Nations League. Una corona di fiori deposta al cimitero monumentale di Bergamo da una delegazione della squadra azzurra guidata dal CT Roberto Mancini e da una dell'Olanda. Si è aperta così la giornata in cui l'Italia del calcio abbraccia Bergamo dopo i lutti del lockdown e ora in un altro momento complesso per tutto il paese. E allora anche il calcio gioca la sua partita, per mitigare sofferenze e condividere fiducia e speranza. In tribuna stasera, tra i 1000 spettatori ammessi, rappresentanti di medici e infermieri degli ospedali Giovanni XXIII e Humanitas e dei 243 sindaci della provincia. Ad accoglierli da perfetti padroni di casa il presidente dell'Atalanta Percassi e l'allenatore nerazzurro Gasperini, mentre la curva nord, in segno di solidarietà e vicinanza, sarà coperta da un immenso tricolore. E dalla Federcalcio anche un contributo per il progetto Il Sogno in una Stanza, per decorare le stanze del reparto pediatrico del Giovanni XXIII, dove il Covid-19 spesso tiene lontani i piccoli pazienti dalle loro famiglie. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:12 minuti dopo la sintesi della giornata, piccolo break, poi torniamo con Effetto Giorno e tutte le altre notizie. Ripartiremo dal grido d'allarme di oggi del direttore della terapia intensiva del Sacco di Milano. La situazione per quanto riguarda i ricoveri può esplodere nel giro di poche settimane, ha detto. Faremo il punto con i dati della Fondazione Gimbe di Nino Cartabellotta tra poco. 349-238-6666. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Misure anti-Covid in una settimana sanzionati dai NAS, 351 tra bar e ristoranti, quasi la metà per mancato uso delle mascherine. Il direttore della terapia intensiva del Sacco di Milano, situazione esplosiva in poche settimane, ne parliamo tra poco. Calcio, torna in campo la nazionale di Mancini, stasera a Bergamo si gioca Italia-Olanda di Nations League. Eccoci qua in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ed è con noi Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Grazie per essere con noi, buongiorno. Grazie a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, Cartabellotta, vogliamo con lei, senza fare allarmismo naturalmente, mai questo, pensiamo di non averlo mai fatto, però insomma stare sui numeri, sì, assolutamente sì, perché è vero che la situazione per ora è ampiamente sotto controllo, però che l'aria stia un po' cambiando lo testimoniano varie cose. Intanto la grido d'allarme è lanciato oggi al direttore della terapia intensiva del Sacco di Milano, un ospedale particolare. Su Milano c'è un'attenzione in queste settimane particolarmente alta, che dice in poche settimane possiamo arrivare al collasso. La situazione a livello regionale è variegata, teniamo conto di questo, perché la media nazionale non preoccupa in questo momento più di tanto, ma ci sono situazioni invece che preoccupano. Io do solo un dato prima di darle la parola, che è questo: i ricoveri. erano 1380 il primo settembre, sono diventati 4821 due giorni fa, sono triplicati praticamente in 40 giorni. Di questi 452 sono i dati in terapia intensiva, forse aggiornati a ieri sono qualche cosa di più. È vero che in Italia ci sono oltre 5.000 posti teorici, tra l'altro, perché bisogna vedere quanti poi sono stati anche quelli approntati e dovranno esserlo proprio nelle prossime settimane da parte del governo nei vari ospedali. Però quanto tempo ci vuole per arrivare con questa progressione in una situazione difficile? Partiamo da questo, Cartabellotta, no? Dai i dati anche regione per regione, quali sono le situazioni che preoccupano di più? Ma intanto quello che va precisato subito è che noi siamo passati da un incremento settimanale, nell'arco temporale su cui noi come Fondazione Gimbe facciamo le nostre analisi, da una crescita lineare dei casi a una crescita esponenziale. Questo in termini pratici che cosa significa? Che se i casi settimanali si erano attestati intorno a 10.000 fino a due settimane fa, c'è stato un salto in alto, in particolare l'ultima settimana, quella che va dal 7 al 13 ottobre, siamo passati da 17.252 a 35.704, quindi sono più che raddoppiati in una settimana. È evidente che quando i casi aumentano così tanto, e questo incremento bisogna smontare definitivamente l'idea che è un incremento dovuto al fatto che facciamo più tamponi, perché nell'ultima settimana il rapporto tra positivi e casi testati è passato dal 4 al 7%, quindi significa che ogni 7 persone, ogni 100 persone testate sono 7 positivi. Quindi i tamponi sono sempre quelli, ma crescono i positivi. Comunque crescono, diciamo, un po', ma i positivi aumentano molto di più, cioè il virus circola molto di più di quanto lo stiamo cercando. Man mano che questi casi aumentano, si espande quello che è il cosiddetto bacino dei casi attualmente positivi, che nell'ultima settimana sono passati da 60.000 a quasi 90.000. E ovviamente aumentando il numero dei contagiati, la probabilità che questi vadano a infettare soggetti fragili, soggetti anziani, soggetti che ovviamente richiedono poi non più soltanto l'isolamento domiciliare, ma le cure in ospedale, aumenta ovviamente in misura proporzionale. E come ha anticipato lei, i numeri sono proprio questi. Infatti nell'ultima settimana siamo passati, come ricoverati con sintomi, da 3.625 a 5.076 pazienti e da 319 in terapia intensiva a 514. È evidente che questi incrementi cosa fanno capire? Che se il virus non si ferma sul territorio, inevitabilmente poi vedremo tra alcune settimane, voglio dire, le conseguenze sugli ospedali. Ecco, con una esattamente questo, volevo arrivare insieme a lei, Cartabellotta, a questo, perché forse è il caso di chiarire un aspetto, no? Perché io sento molti che dicono, i ricoveri sono ancora una percentuale, no? Ci sono molti posti letto liberi, le terapie intensive, ci sono ancora molti, molti posti liberi, però ci sono zone dove siamo già quasi al 50% dei posti occupati, per esempio in Campania, a Napoli, un ospedale che lavora al 50%, è già molto, è già troppo, forse è già al limite. Gli ospedali non sono fatti per lavorare al massimo carico, questa è una situazione che, se capiterà, è già capitata, la dovremo gestire, ma non è una situazione ideale, giusto? Ma su questo, diciamo, si è innestata un po' una sovrapposizione in qualche maniera di numeri con quelli della prima ondata. Noi nella prima ondata abbiamo visto, diciamo, salire in maniera repentina, molto rapida, ovviamente che ci ha trovato largamente impreparati, un numero enorme di casi, prevalentemente concentrati in alcune regioni, con, diciamo, il grande tsunami lombardo, che ovviamente ha mandato in sovraccarico i servizi sanitari ospedalieri, provocando anche un numero di decessi molto elevato. Noi adesso ci troviamo in una fase della risalita della curva, quindi è come se stessimo scalando questa montagna settimana dopo settimana, dove ovviamente abbiamo prima la necessità di non far andare in tilt quelli che sono i servizi di tracciamento territoriale. Quindi la scialuppa di salvataggio, come ho scritto io stamattina in un tweet, della seconda ondata non sono le terapie intensive, ma è il tracciamento territoriale e l'isolamento dei casi. Perché se noi non riusciamo a fare questo, è evidente che la prima diga è questa. La prima diga è questa. Quando salta la diga territoriale, quindi quando salta il tracciamento dei casi, adesso stiamo cominciando a vedere l'incremento anche sulle terapie intensive. Ecco, Cartabellotta, ma a questo proposito, no, su questa prima diga del tracciamento, perché oggi alcuni giornali scrivono che, per esempio, a Milano, scrive il Fatto Quotidiano, c'è un arretrato di 2.500 casi di trattamento, di tracciamento che non si sono ancora analizzati. Cioè, sarebbe una sofferenza anche da questo punto di vista. Le voglio chiedere, visto che sono stati annunciati nei mesi scorsi, decreto Cura Italia, decreto rilancio, quasi 5 miliardi di investimenti in spese sanitarie extra, si è parlato di rafforzare la rete ospedaliera, sì, ma anche la medicina territoriale, quello che diceva lei. C'è stato questo incremento di capacità e adesso è sufficiente? Ma guardi, noi abbiamo due ordini di problemi a spendere soldi. Si parla tanto del MES, ma non riusciamo nemmeno a spendere quelli che vengono stanziati dal governo, perché di fatto le regioni hanno impiegato circa 3 mesi per preparare quelli che sono i piani di potenziamento ospedaliero. La gara per i tamponi rapidi, che potrebbe alleggerire molto praticamente quello che è un po' il carico sui laboratori, è scaduta qualche giorno fa. Il virus purtroppo corre molto più veloce sia di quelli che sono i rapporti Stato-Regione, sia di quella che è la burocrazia che porta poi all'acquisto e all'implementazione. E soprattutto ci dimentichiamo che il collo di bottiglia in tutta la sanità italiana è il personale. Aumentare i posti di letto in terapia intensiva senza gli anestesisti, aumentare il numero di tamponi senza le persone che poi fanno materialmente il tampone o lo processano in laboratorio, crea una serie, diciamo, di colli di bottiglia organizzativi che in alcune regioni piuttosto che in altre ovviamente poi contribuisce a quello che è l'incremento dei casi. Purtroppo non siamo riusciti a spendere adeguatamente e tempestivamente questi soldi per la seconda ondata. Grazie Lino Cartabellotta, grazie per essere stato con noi, il grazie presidente della Fondazione Gimbe. Adesso invece vogliamo provare a darvi una buona notizia che riguarda il mondo dei libri, il mercato dell'editoria, perché c'è stata una pesante ricaduta negativa a partire dal lockdown. Ebbene, adesso gli ultimi dati sembra parlare di un mercato in ripresa. Fra luglio e settembre gli italiani sono tornati a comprare libri e così le forti perdite generate dal lockdown e dalla conseguente chiusura delle librerie sono state relativamente arginate. Se fra gennaio e aprile il fatturato delle case editrici era calato in media del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, fra luglio e settembre la perdita si è ridotta al 7%. Si tratta di 4 punti percentuali in meno rispetto alla rilevazione gennaio-11 luglio. Questi sono dati dell'AIE, l'associazione editori. In particolar modo stanno recuperando i canali di vendita fisici, ossia librerie e grande distribuzione, che di fatto durante il lockdown hanno potuto effettuare solo consegne a domicilio. Complessivamente comunque il trend di crescita riguarda sia le librerie fisiche che quelle digitali del circuito Arianna. In questi dati invece non è compreso Amazon. A settembre, per la prima volta nel 2020, hanno segnato 30 giorni in positivo, con vendita in crescita dello 0,3% rispetto al 2019. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso una piccola storia che riguarda le mascherine in particolare per un gruppo particolare di persone. Parliamo dei non udenti. In Italia ci sono 44.000 persone non udenti, per loro è fondamentale che le mascherine siano trasparenti, perché senza la possibilità di leggere il labiale, no? Anche di vedere un po' l'espressione, la faccia dell'interlocutore, non riescono a capire. È una questione che è stata rilanciata dall'Ente Nazionale Sordi. Fortunatamente c'è chi ha pensato, perché queste mascherine che ci sono non sono in distribuzione, ma c'è chi ha pensato a produrle, e in particolare è con noi Eleonora Tortorelli, titolare di Viviso, azienda che produce proprio questo tipo di mascherine e anche altre. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, senta, come avete iniziato a produrre? Perché in pochi hanno pensato alla necessità, no, di questo tipo di mascherine, però effettivamente per queste persone, 44.000 in Italia non udenti, ma forse anche per una scuola, per esempio, no, per gli insegnanti, perché sì, anche questo potrebbe essere un mercato, no? Come avete iniziato voi a produrle? E l'invenzione è nata grazie al nostro sindaco Francesco Casciano di Collegno, per sopperire l'esigenza nel periodo Covid delle persone che hanno più bisogno e necessità di leggere il labiale per comunicare in diverse circostanze quotidiane, come anche nel lavoro. Successivamente abbiamo riscontrato poi l'efficacia dell'utilizzo anche in altri settori, come nel commercio, negli istituti, quindi per gli insegnanti e anche per i logopedisti e commercianti. Ecco, come sono fatte queste mascherine rispetto alle altre? Che io ho visto le foto, si vede proprio che c'è una parte, che cos'è, plastica trasparente nel centro? Sì, è plastica. La mascherina è composta da TNT lavabile. È dotata di questa trasparenza di plastica che appunto permette di mostrare il sorriso e leggere il labiale. È ad uso generico idropellente, sì, e traspirante, riutilizzabile. e appunto dotata di questa trasparenza che permette all'altezza della bocca di mostrare il labiale, il sorriso e anche cogliere l'espressione, che è importantissima in diversi campi, ed essendo comunque la prima percezione visiva anche per l'apprendimento dei bambini, rappresenta un valido sostegno per molte attività. Ecco, voi avete iniziato a produrle, diceva, per vostra iniziativa, no? Non su, diciamo, segnalazione particolare di qualche autorità o di qualche ente. Sì, in realtà il nostro sindaco, appunto, del nostro comune qua di Collegno, di Grugliasco, hanno avuto questa esigenza per dei ragazzi, delle persone sorde dei nostri comuni, e dunque noi in questo periodo abbiamo aperto questa nuova attività per sopperire l'esigenza di queste persone. Certo. Infatti inizialmente le abbiamo regalate appunto ai nostri comuni. Perché attualmente queste mascherine come si trovano? Bisogna ordinarle su internet, sì, non sono in vendita? Sì, sono in vendita sul nostro sito viviso.it, sì. E abbiamo il nostro e-commerce, certo. E anche tramite email. Sì, ok, no, mi riferivo al fatto che non sono in distribuzione, non sono nelle farmacie. Se uno va in farmacia a cercarla non la trova, la deve comprare in questa maniera qua, se ho capito bene. Molte farmacie le stanno comprando, ecco, da sé. Ecco, inizia anche ad esserci questa distribuzione. Senta, un'ultima cosa, dottorella, sì. Le voglio chiedere, insomma, su questa riconversione anche di molte aziende, no? Perché voi siete un'azienda che fa anche dell'altro, no? Prima di produrre mascherine, cosa facevate voi? Sì, noi in realtà abbiamo mantenuto la nostra attività di vendita di ricambi, sì, auto e di moto, e quindi vendiamo accessori e ricambi auto. Fate questo principalmente? Sì, facciamo questo. Nel periodo Covid, per sopravvivere a questo periodo così difficile, e abbiamo iniziato ad operare in questo mondo farmaceutico e a produrre mascherine. Pensa, sì, che andrete avanti, che bilancio fate fino ad ora? Sì, e andremo avanti perché abbiamo svolto tutte le operazioni a norma di legge, e quindi abbiamo cercato di offrire, di creare i prodotti migliori ad oggi sul mercato. E per ora la produzione è stata di circa 7.000 pezzi, e cerchiamo di soddisfare tutte le nostre richieste in base appunto alle richieste del mercato. Va bene, grazie per essere stata con noi, Leonora Tortorelli di Viviso, grazie ancora, una delle tante aziende che in questi mesi, insomma, si è riconvertita, e in particolare in questo caso fanno anche, sappiatelo, mascherine trasparenti che sono importanti per i sordi, ma anche a scuola probabilmente per gli insegnanti, no? Perché così potrebbero, cioè, aiutare, dare una mano, perché no? 13:30, facciamo un piccolo break, torniamo tra poco. 349-238-6666, parleremo anche dell'impegno della nazionale di calcio stasera in una città particolare dal punto di vista anche simbolico. Bergamo torna in campo alla nazionale, a tra poco. Ora è ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite su aruba.it. Effetto giorno. Misure anti-Covid in una settimana sanzionati dai NAS, 351 tra bar e ristoranti, quasi la metà per mancato uso delle mascherine. Il direttore della terapia intensiva del Sacco di Milano, la situazione è esplosiva in poche settimane. Da oggi in vigore il nuovo DPCM, preoccupa però ancora il nodo scuola-trasporti, il governo apre un tavolo con le regioni. Istat prosegue il calo dell'economia sommersa e di quella illegale, insieme valgono l'11,9% del PIL. Calcio torna in campo alla nazionale di Mancini, stasera a Bergamo si gioca Italia-Olanda di Nations League. minuti, cari ascoltatori, eccoci qua in diretta con Effetto Giorno. Tra poco parliamo dell'impegno della Nazionale di Calcio stasera a Bergamo, quindi un impegno anche di carattere simbolico, abbiamo già sentito poco fa nel racconto di Dario Ricci. Adesso però i vostri messaggi a 349-238-6666 rapidamente, perché non abbiamo molto tempo. Sì, c'è chi chiede, per esempio, il sito, quello delle mascherine trasparenti di cui abbiamo parlato poco fa, per poterle acquistare. È viviso.it il nome di questo sito, non è pubblicità, ma insomma credo che sia una delle poche, forse l'unica azienda in Italia che fa mascherine che vanno bene per i sordi, per i non udenti, ma forse anche per gli insegnanti. Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. I vari decreti con cui il governo ha fatto fronte alla pandemia prevedevano oltre 300 provvedimenti attuativi. Lo sapete, il decreto madre crea la cornice e poi le norme attuative appunto definiscono i dettagli e così le varie misure prendono forma. Ebbene, finora ne sono stati attuati solo 77 di decreti. 77 su 300. Il decreto Cura Italia ne ha realizzati 24 e ne mancano 10. Per il decreto rilancio ne mancano all'appello ancora 85 e ne sono stati applicati solo 52. L'ultimo nato, il decreto agosto, ha visto lievitare in Parlamento il numero delle misure attuative, che sono passate dalle 53 iniziali a 84. Non è un esercizio contabile. Se la macchina burocratica non funziona a pieni giri, si ferma, che ne so, l'erogazione della cassa integrazione, si rallenta l'erogazione della liquidità a chi non ha più risorse, non si attivano i bonus biciclette, si ferma la decontribuzione per le nuove assunzioni, solo per citare alcuni casi. Ma più in generale, questa situazione è lo specchio di uno squilibrio, quello tra una classe politica e di governo che non padroneggia i meccanismi dell'ordinamento e diventa così schiava di una nuova casta, quella dei burocrati, che invece crea continue occasioni per esercitare il suo diritto di veto e per continuare il suo contropotere. Il Covid ha cambiato la nostra vita, ma su questa struttura sembra proprio che non possa nulla nemmeno il virus. È con noi Gabriele Riva, sindaco di Arzago d'Adda. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, lei stasera sarà in tribuna, giusto? A vedere la partita Italia-Olanda, è una delle persone invitate. Ecco, esatto. Sì. Voi sindaci della provincia di Bergamo e, se ho capito bene, anche una delegazione di medici. Esatto, medici e infermieri degli ospedali di Bergamo che insomma hanno vissuto quei mesi tragici. Quei mesi tragici. Senta, fra l'altro lo stadio di Bergamo è considerato uno dei luoghi, dei momenti iniziali, no, della pandemia, con quella famosa Atalanta-Valencia esatto, di Champions League. Oggi la situazione è naturalmente molto diversa. Con che spirito andrà stasera allo stadio? Le voglio chiedere questo intanto. Ma sicuramente io ringrazio, e credo di farlo a nome di tutti i sindaci bergamaschi, i 243 sindaci bergamaschi, perché la provincia di Bergamo è una provincia molto estesa anche geograficamente. Un grazie al presidente Gravina per questo invito. Il senso che io do a questo invito è proprio il fatto che i bergamaschi hanno vissuto dei mesi drammatici e l'abbraccio della nazionale io credo che possa bene rappresentare l'abbraccio di tutta la nazione alla nostra provincia. Ecco, e con questo spirito di solidarietà io rappresenterò i miei cittadini allo stadio stasera. È un tifoso lei della nazionale o anche di calcio in generale? Io sono un tifoso e un appassionato, quindi è un doppio piacere, diciamo, essere lì. Spero di vedere anche una bella partita. Insomma, Nations League vale quel che vale, questo torneo, diciamo, europeo, no? A gironi. Però insomma, Italia-Olanda è sempre una bella partita di calcio, un bel momento. Senta, al di là del momento calcistico, che spero ci godremo tutti stasera, no? Però tornando un po' anche a quei momenti bui a cui accennava lei, si continua oggi a fare dei confronti tra la situazione nostra di adesso e come era nel periodo di marzo-aprile. Chi per minimizzare, dicendo ma la situazione è molto diversa, è molto meno grave, anche se proprio oggi abbiamo raccontato come dall'ospedale Sacco di Milano arrivi un grido di preoccupazione, perché si dice che nel giro di poche settimane la situazione potrebbe di nuovo peggiorare. Chi invece, proprio per tenere alta l'attenzione, lei come vive questo confronto tra oggi e allora? Ma io credo che insomma, in Italia il rischio è quello di essere sempre un po' troppo tifosi, cioè di dividere sempre le questioni in bianco e nero. È evidente che oggi non siamo nella situazione che abbiamo vissuto mesi fa. È altrettanto evidente che ci deve essere la giusta attenzione e le giuste precauzioni per evitare di tornare in quei mesi, e quindi se da un lato anche da parte dei bergamaschi è evidente c'è un forte desiderio di normalità e quindi benissimo che anche lo sport e le attività riprendano e possano anche portare, diciamo, a livello di riscatto una sorta di normalità ritrovata, dall'altro ecco è giusto che da sindaci, come istituzioni, noi continuiamo a ribadire che dobbiamo tenere l'attenzione alta, chiedere a tutti di rispettare quelle norme, mi faccia dire anche di buon senso per ora, l'uso della mascherina, il distanziamento sociale, l'evitare gli assembramenti, che ci consentiranno, speriamo, di evitare, ecco, di tornare in quei mesi tragici che soprattutto qui a Bergamo e nella Bergamasca abbiamo vissuto. Grazie sindaco, grazie Gabriele Riva per essere stato con noi, il sindaco di Arzago d'Adda, uno dei sindaci della provincia di Bergamo che sarà questa sera in tribuna per vedere Italia-Olanda. Carlo Genta, ciao. Ciao Alessio, ciao a tutti. Allora, noi la guardiamo in TV invece. Noi la guardiamo in TV, beh, insomma, è sempre una bella partita la nazionale con l'Olanda poi, no? Sì. Questo Nations League poi lascia un po' il tempo che trova, o no? Ma sai, io credo che l'importanza dei tornei la dia la storia, quindi magari tra 20 o 30 anni, con 20 o 30 edizioni diventerà comincerà qualcosa a fare statistica. Sì, al momento sono delle amichevoli ufficiali, sì. di buon livello, perché raggruppano comunque tutte le squadre più forti nei vari gironi. Una formula interessante, poi possiamo discutere, e lo faremo poi in tutti i convocati, se sia il momento di far vivere la normale vita delle nazionali, perché soprattutto per partite che sono grosso modo amichevoli. Credo che questo sia il tema, il punto. Ecco, insomma, intendi, visto che già ci sono parecchie difficoltà a portare avanti il campionato, oggi Malagò ha detto effettivamente, insomma, ha ammesso che i problemi non mancano. No, i problemi sono tantissimi e poi ci può essere e ci sarà una con questa situazione e questo modo di gestire il calendario delle nazionali si rischia di avere una ricaduta sul calendario dei club, perché non dimentichiamoci che la prossima iniziano le coppe europee, quindi anche lì viaggi, partite, eccetera eccetera. Tra l'altro nel basket, ti dico ancora questo, nell'Eurolega ci sono già i primi 20-0 a tavolino per squadre che non possono partecipare. Capita ad esempio al Villarban, che ha giocato contro l'Armani la settimana scorsa qui a Milano, al ritorno avevano diversi positivi, non si presenteranno in campo e quindi perderanno la partita che era in programma oggi a tavolino. Bene, queste sono le notizie di sport che ritroveremo dopo le 14 con tutti i convocati. Grazie Carlo, noi ci fermiamo, facciamo un break naturalmente, poi torniamo insieme a Giulia Crivelli, Effetto Mondo, giornale internazionale. Ora è ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite su Aruba.it.